Betty. Adesso viene la Betty di un tempo, che era stata tanto a lungo in ospedale. Io non sapevo che era morta, lo seppi però più tardi. Essa piange e sospira in maniera tremenda. Dopo molti sforzi sono riuscita a portarla a parlare finalmente. Io, da dove vieni? Lei, dalla nebbia più fitta e profonda. Io, come hai fatto a trovarmi? Lei, il chiarore mi ha attirata. Io, in che modo ti posso venire in aiuto? Lei, mortificati. Io, mi sorprende molto che tu mi dica questa cosa. Abbiamo discusso tante volte insieme su questo argomento e tu dicevi sempre che la cosa non aveva nessuna importanza. Lei, adesso vedo tutto in un'altra luce. Io, devi soffrire molto? Lei, il desiderio mi consuma. Poi si mise a piangere da strappare il cuore e disparve. Alcune notti appresso essa tornò di nuovo. Io, hai ancora una tua volontà propria? Lei, no. Io, come fai a venire proprio da me? Lei, noi seguiamo una guida superiore, la volontà personale muore con il corpo. Io, puoi parlarmi dell'aldilà? Lei, credi. Io, che cosa devo credere? Lei, ciò che dice la Chiesa. Io, posso fare qualche cosa, perché le anime non vengano più da me? Lei, no. Lasciale venire. Lei venne ancora 4 volte, non parlò e poi di nuovo fu tutto finito. Qualche cosa è cambiata. Non ho più paura, mi spavento molto di meno, quando mi accorgo che c'è qualche cosa di nuovo. Allora ci si può abituare anche a questo. Solo la stanchezza spaventosa prende il sopravvento. Non è tanto una stanchezza fisica, come dopo una faticaccia, ma una specie di assopimento spirituale, che agisce proprio sulla volontà. Ciò che prima non costava niente, adesso richiede una lotta perché io voglio volere, ma non riesco a niente. Sono stata di nuovo 8 giorni a Die e in questo tempo ho visto 5 diverse figure, 2 di esse si sono messe a ballare assieme. E anche il bambino le ha viste assieme a me. Stavamo giocando, ed ecco una signora fra noi. Lui si mise a ridere e disse, «Ecco una nuova signora qui». Effettivamente lei non impressionava per niente. Nota. La parola di Cristo, se non diventerete come i bambini, resiste ed è contraria ai di nostri ad ogni tentativo di spiegazione. Questa parola misteriosa si avvicina moltissimo al racconto di Paul Claudel circa Anunus e Anima, vedi la prefazione.